poi passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, 18:35, 800 24 00 24 è il numero di telefono per chiamarci in diretta, come sapete, alla Zanzara, con i vostri interventi per commentare i fatti del giorno. SMS 349 238 6666, la Zanzara è radio24.it, i titoli del TG2. Da Pittsburgh, duro monito di Obama, Sarkozy e Brown all'Iran dopo la scoperta di un secondo impianto nucleare, sanzioni più dure entro dicembre, anche l'Italia si associa alla condanna. Mezzo miliardo di euro esportati illegalmente all'estero, scovati dalla finanza, nel mirino del fisco anche il campione di ciclismo Davide Rebellin e il pilota di Formula 1 Vito Antonio Liuzzi. Continua il maltempo al sud, colpite Calabria, Sardegna e Sicilia. A Palermo una frana ha investito un quartiere alla periferia della città, molte persone bloccate nelle case. A 25 anni dal loro leggendario incontro di Mosca per il titolo mondiale di scacchi, nuova sfida tra Kasparov e Karpov. Vince di nuovo Kasparov battendo lo storico rivale per 9-3. Dal TG2 a studio aperto, sentiamo i primi titoli. Prima i rifiuti tossici, adesso pure i cadaveri. Si scorgerebbero resti umani nel relitto della nave dell'Andrangheta affondata in Calabria. Il mistero si allarga alle altre imbarcazioni colate a picco davanti alle nostre coste, forse con materiale radioattivo. Il maltempo flagella al sud, frane e allagamenti in Sicilia e Calabria. Le strade delle città si trasformano in fiumi in piena. 4 vittime in Sardegna e gli esperti avvertono ancora emergenza per domani. Lo schiaffo di Ahmadinejad arriva durante i lavori del G20 a Pittsburgh. In Iran in funzione un nuovo sito nucleare. L'annuncio all'indomani dello stop dell'ONU alle armi atomiche. Unanime condanna, nuovo messaggio di Bin Laden. L'ultimo sfregio a Sanaa, la salma della 18enne uccisa a Pordenone perché amava un italiano, è tornata in Marocco. Presenta in pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito. Vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No. S'apri il dibattito. Noi si voleva solo fare una chiacchierata con voi sui problemi della donna. Poi alla fine tireremo le conclusioni. Scusi, io ho seguito un po' la questione. Le donne incazzate e via e via. Ma insomma, la donna. O l'uomo. Da Berlinguer ti voglio bene, uno dei primi film di Benigni, per seguire la folle discussione di Taranto, cioè quella sulle quote rosa obbligatorie in una giunta provinciale, una vera e propria follia tutta italiana, a cui si aggiunge oggi il parere autorevole di uno dei rappresentanti del PDL, che non c'entra niente con la questione perché si tratta di una giunta di centrosinistra. Stiamo parlando di Carlo Giovanardi, intervenuto in una nostra trasmissione questa mattina, che dice, aggiungendo altre polemiche ad una discussione già ridicola: ci sarà un nuovo discriminato, l'uomo che verrà fatto fuori dalla giunta tutta maschile di Taranto. Mentre si parla in teoria di rispettare i diritti di tutti, lì ci sarà un signore che verrà buttato fuori dalla giunta in quanto uomo. Mentre si parla di, perché un signore che ha un nome e un cognome solo perché di un determinato sesso, in questo caso uomo, sarebbe viceversa se fossero state tutte donne, perde il suo incarico e il suo partito che aveva indicato lui perde il diritto di indicare una persona di fiducia per mettere una donna chiunque. Una donna chiunque sarebbe una donna qualunque, credo, nel linguaggio di Giovanardi. C'è anche questo problema, se volete, c'è la discriminazione nei confronti di quell'uomo, di quel maschio, che perderà il posto per una donna chiunque, usando l'espressione di Giovanardi. 800 24 00 24. Sapevo che prima o poi qualcuno avrebbe utilizzato questo argomento, cioè dire la presenza del presidente americano Obama in 5-6 televisioni dopo averlo chiesto, per fare un per dare un messaggio al paese. È stato anche al Letterman Show e in diverse TV, fatta eccezione per la Fox, dichiaratamente repubblicana. Ebbene, il vicepresidente, credo, del gruppo alla Camera del PDL, Bocchino, di stretta osservanza finiana, che cosa ha detto? Pensate se una cosa del genere accadeva in Italia. Il 18 settembre scorso, di venerdì, Obama ha chiamato le cinque principali televisioni americane alla Casa Bianca, ha rilasciato cinque interviste in un faccia a faccia con un solo intervistatore, senza contraddittorio politico. Le ha fatte andare in onda tutte e cinque contemporaneamente domenica 20 settembre. Ha escluso Fox News di Murdoch perché sono conservatori e lo criticano. Immaginiamo che domani, venerdì pomeriggio, Berlusconi chiama Rai 1, Rai 2, Rete 4, Canale 5, Italia 1 a Palazzo Chigi, fa 5 interviste senza contraddittorio, le fa mandare in onda tutte e 5 contemporaneamente domenica mattina, esclude Rai 3 perché lo critica, il titolo di Repubblica lunedì mattina sarebbe colpo di Stato in Italia. È successo in America il 20 settembre scorso, nessuno ha detto niente. Diciamo che il sistema americano è leggermente diverso da quello italiano e dunque il paragone non ci sta assolutamente. Quello che ha fatto Obama ogni tanto lo ha fatto anche Bush, è nella prassi dei rapporti tra il presidente americano e le reti televisive che si contendono il presidente a ogni piesso spinto. E poi c'è da aggiungere, e Bochino non lo nota naturalmente, non lo aggiunge, non lo dice, che il presidente Berlusconi è anche proprietario di alcune reti televisive. Ma lo stesso Bochino, sentite quale altro paragone fa Berlusconi con il caso John Fitzgerald Kennedy a proposito della notissima vicenda Escort. John Fitzgerald Kennedy, che ha fatto il presidente fino a che non è stato ucciso, certo i rapporti con le donne probabilmente faceva più di Berlusconi, ed è stato allora ed è tuttora un grande mito della sinistra mondiale. Sì, ma Marilyn Monroe non è diventata allora mito. Allora mettetevi d'accordo. Ma forse non gli faceva cantare, meno male, no, che però, non c'è. È morta una cosa però, un po' più riservata, insomma. Però, devo rispondere a travaglio. Marilyn Monroe non è diventata ministra, ma è morta in circostanze misteriose. Neanche candidata. Tu che preferisci delle due cose? Che preferisci dei due comportamenti? Ma se la Merkel scambiamoci sia il ministro sia la morte misteriosa. Scambiamoci le due cose. Va bene, qui c'è un personaggio che non viene nominato, che è il ministro Carfagna, tra l'altro, nessuno ha il coraggio poi di dirlo esplicitamente. Radio Londra, sentite la voce della resistenza berlusconiana, oggi personaggio a sorpresa. Parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice, è cessata la pioggia. La mia barba è bionda. Parla Londra. Dal fronte della resistenza anti-berlusconiana in montagna, pochissimi, anzi nessuno, la maggior parte nei salotti e anche pieni di soldi, spesso spunta uno scrittore che si chiama José Saramago, è un premio Nobel, se non sbaglio, molto famoso, il quale, siccome si è visto rifiutare un suo libro da Einaudi, adesso pubblicato da Bollati Boringhieri, in cui tra le altre cose definiva Berlusconi un capo mafioso, così tanto per intenderci, adesso sostiene le seguenti cose. I fatti di questi mesi, leggo oggi da un articolo del Corriere della Sera, i fatti di questi mesi confermano quello che penso. Berlusconi è o dovrebbe essere la vergogna dell'Italia. So che la maggioranza degli italiani continua a sostenerlo. Io mi domando, fino a quando? Il più offeso sono io, offeso nel mio amore per l'Italia, per la sua cultura, per la sua storia, offeso anche nella mia pertinace speranza che l'incubo abbia fine. Questo dice Saramago. Credo di non essere stato severo, ma giusto. Continuo a sperare che Berlusconi diventi in un prossimo futuro il personaggio principale di un'opera buffa su cui ci possano fare delle grandi risate. Eccoci qua, 18:47, con il senatore Salvo Fleres del PDL. Buonasera. Buonasera. Se qualcuno se la vuole prendere con chi ha ideato questo allargamento dello scudo fiscale, se qualcuno si vuole indignare, ecco qua, vi offro il personaggio, il protagonista di questa vicenda. Però resti lì, Fleres, non ce l'ho con lei, naturalmente, è un gioco, è uno scherzo. è uno scherzo, perché le voglio far ascoltare una cosa. Che cosa? Voglio dare un consiglio a quelli che hanno istituito il comitato per il premio Nobel a Berlusconi. Ieri, in conclusione della trasmissione, è intervenuto uno spettacolare ascoltatore, personaggio, ormai si può chiamare così, Alessandro da Livorno. Secondo me il comitato per il premio Nobel a Berlusconi dovrebbe assumerlo immediatamente come portabandiera, come vessillo di questa impossibile, diciamo pure, candidatura. Sentitelo. Volevo parlare del Nobel e dare la mia adesione a Silvio Berlusconi, il nostro presidente, perché per quanto io viaggi nel mondo e in Europa e anche negli Stati Uniti, anche nel Regno Unito, eccetera, sto incontrando sempre più persone che stimano questa persona, addirittura il nostro presidente. Addirittura. E penso che l'immagine dell'Italia sia migliorata dell'80%, come le preferenze del presidente sono salite al 68-70% in Italia. Ha incontrato i grandi, i suoi pari e forse anche più come grandezza di Stato, e ha fatto in modo di poter riportare la pace in Georgia, di ristrutturare delle ferite importanti che hanno condotto a una sicura pace per qualche tempo. E quindi, come ripeto, ho avuto occasione di vivere in Russia per 2 anni, e anche quando era caduto, eccetera, era un personaggio già amato nell'84. Io credo che più meritevoli di lui a questo punto, per quanto poca conosco gli altri, io conosco lui. Assumetelo, vi prego, assumetelo. 18:49. Allora, Fleres, prima di entrare nel merito della vicenda dello scudo fiscale, ma insomma, lei una petizione per Silvio Berlusconi, ma voglio mettere in difficoltà, ma lei ha fatto sindacato, ha fatto giornalista, viene dai repubblicani, insomma, non è l'ultimo arrivato. La firmerebbe una petizione per Silvio Berlusconi per il Nobel per la pace? Mi dica di no, perché sennò altrimenti mi cade subito, eh? Io credo che se ci fosse un premio Nobel per la politica, Berlusconi lo meriterebbe senz'altro per quello che ha fatto. Poi naturalmente ci sono opinioni diverse, tutte rispettabili. L'unica cosa che io non considero rispettabile è quello di sostituire il cabaret alla politica. Credo che la politica debba tentare, anche se molto. E chi fa cabaret secondo periodo, lei? In genere chi cerca di trasformare la politica in cabaret non credo che renda un buon servizio. E dunque anche questi che propongono Berlusconi come premio Nobel per la pace fanno un po' di cabaret. Ma questa è un'esagerazione, diciamo così, che sicuramente sarà oggetto di una particolare ammirazione di questo signore nei confronti di Berlusconi. Credo che comunque la politica. Ma ci sono suoi colleghi, ci sono suoi colleghi deputati e senatori che hanno firmato questa roba. Però vabbè, insomma, voglio dire, non è che è illegittimo, non è che è una follia candidare qualcuno. Le opinioni sono tutte quante apprezzabili, alcune condivisibili, altre meno. Io ripeto, se ci fosse un premio Nobel per la politica, Berlusconi lo attribuirei sicuramente. Vabbè, lei ha rigirato la frittata in questo modo, però lo posso capire. Senta, Fleres, no, sto scherzando, Senta una cosa, lei mi risulta che addirittura sia direttore di una radio. Noi l'abbiamo chiamata perché lei è l'ideatore di quell'emendamento che ha allargato lo scudo fiscale ed è stato oggetto di polemiche, come lei sa, i reati, iniquo, altri naturalmente invece pensano che sia giusto per far entrare dei soldi in Italia. È vero che lei è direttore di una radio, che però non abbiamo trovato, una radio un po' fantasma, Radio Vulcano. Sì, no, la radio esiste, lo diceva la sua collega poc'anzi quando mi ha rintracciato. In questo momento la radio sta trasferendo gli studi e il punto di emissione, per cui in via etere non si trova, si trova soltanto in internet. Basta digitare il sito della radio, non so se è il caso di dirlo o no, comunque insomma basta digitare il sito della radio e ci si può collegare. Ma non abbiamo trovato nulla a quel sito, comunque è un altro discorso. Lei ha fatto il giornalista o è ancora giornalista, non lo so, è stato sindacalista, sì. È catanese doc, possiamo dire così? Sì, certo. Catanese doc, ha fatto anche molto sport, tra cui pallacanestro, pallavolo, calcio, karate o no? O sbaglio? No, karate è la storia un po' diversa, nel senso che mi hanno conferito la cintura nera honoris causa per il karate perché quando ero assessore alla cooperazione alla regione siciliana si tennero in Sicilia le Universiadi e in quella circostanza io riuscii, essendo diciamo così parte in causa nel comitato organizzativo a far tenere una dimostrazione di karate all'apertura delle universiadi. Il karate, come lei sa, non è uno sport olimpico e la Federazione Karate si batteva in quel momento perché lo diventasse, e quindi per ringraziarmi, diciamo così, per questa... Vabbè, allora non è cintura nera sul serio, no, cintura nera ad onorem, diciamo. Io ho fatto soprattutto velocità, facevo i 100 e 200, poi ho giocato a calcio, ho fatto pallavolo, pallacanestro, ping pong, lo sport mi piace. Senta, ma che ci azzecca lei allora con, per carità, mica perché ha fatto sport, nel suo curriculum non mi pare esperto di cose finanziarie, di scudi fiscali? Bene, perché nel mio curriculum ci sarà sicuramente pure scritto che io per 15 anni su 17 di permanenza all'ARS sono stato in ARS è l'Assemblea Regionale Siciliana, per spiegare agli ascoltatori. Sì. Sono stato, dicevo, per 15 anni componente della Commissione Finanze, per due volte ho fatto il presidente della Commissione Attività Produttive, ho fatto l'assessore alla cooperazione, insomma di economia. Ne mastica un po', ne mastica un po'. Direi abbastanza. Ecco, allora io però le faccio una domanda, lei mi deve rispondere in maniera sincera. Gliel'ha suggerito qualcuno quell'emendamento? C'è una manina che è venuta da fuori oppure è un'idea tutta sua? Guardi, l'idea è assolutamente mia. È ovvio che il testo dell'emendamento che io avevo abbozzato l'ho sottoposto agli esperti e della Commissione e del gruppo parlamentare perché venisse formulato in maniera corretta, tant'è che l'emendamento poi approvato costituisce la terza versione dell'emendamento. Però Tremonti sarà d'accordo con questo emendamento, immagino, no? Ma il governo in Commissione ha espresso, e in Aula pure, ha espresso parere favorevole. Tu che hai un'idea di Tremonti? No, è un'idea mia. Vabbè, condivisa dal governo. Ogni tanto c'è un gioco delle parti che non si capisce. C'è un emendamento spesso in molte materie. È un emendamento presentato da un deputato che poi il governo fa suo, come se poi fosse venuto da fuori il governo. Diciamo. Questo è il caso, non è questo il caso. Anzi, le anticipo, se le fa piacere, le anticipo che nei prossimi giorni ne presenterò uno sullo stesso argomento che riguarda una fattispecie che in quel testo non è ancora prevista. Una fattispecie. Diciamo così, sempre di natura finanziaria, che riguarda gli immobili e le partecipazioni azionarie. Mi dia questo scoop allora. Gliel'ho dato. Ok, ho capito, lo specifichi meglio, diciamo. Nel senso che i termini del 15 giugno previsti nell'emendamento, per chi possiede all'estero immobili o partecipazioni, rischiano di essere eccessivamente risicati. E allora probabilmente aggiungendo, diciamo, una ulteriore penale o comunque un'ulteriore tassa, diciamo così, così come c'è in questa versione, al trasferimento delle somme, io ipotizzo e suggerirò in commissione di spostare questo termine limitatamente a queste due fattispecie a una data diversa. Che data può essere? Ma sicuramente entro il 30 giugno, perché per motivi di natura diciamo legata alla contabilità dello Stato. Senta, dopo tutte le polemiche che ci sono state, passeremo questa notizia ai colleghi di Focus Economia per cercare di vagliarla. Senta, dopo tutte queste polemiche che ci sono state, lei è ancora convinto e si è pentito di qualcosa? No, mi dia una risposta velocissima. Assolutamente no. Lo rifarebbe tale e quale? Lo rifarei tale e quale. Se fosse perfezionabile dal punto di vista tecnico, sarei disponibile a perfezionarlo, ma credo che da questo punto di vista il consenso del governo mi tranquillizza. Quando qualcuno dice una cosa vergognosa, favorisce gli evasori, noi che invece paghiamo le tasse, siamo vessati, eccetera, lei come risponde? In un flash? Ho poca fantasia, io non mi sono sforzato molto di fantasia, ho ripetuto quello che è già stato fatto nel 2001, adattandolo alla situazione attuale e cercando di fare in modo che sia efficace, cioè se noi vogliamo riportare in Italia... Prima di tutto riportare i capitali in Italia, questo è il suo obiettivo. Ecco qui, grazie Fleres, buonasera. Titoli del TG3 con una Bianca Berlinguer, forse prossimo direttore dello stesso TG3 con la voce un po' rauca. Monitori Obama all'Iran che ammette un secondo impianto nucleare, dura condanna ai Sarkozy, Brown, Merkel e Berlusconi. Nuovo messaggio audio di Bin Laden rivolto agli europei, andatevene dall'Afghanistan. Napolitano agli europarlamentari italiani, Strasburgo non diventi cassa di risonanza di conflitti e polemiche interne. Dibattito Gasini dilemma Pisano, convergenza su Afghanistan, immigrazione, economia, leader UDC, fa strada il partito del buonsenso. Paradisi fiscali, nel mirino del fisco il ciclista Rebellini, il pilota Liuzzi, un imprenditore, recuperati da gennaio 4 miliardi. Non solo i rifiuti tossici della nave affondata nelle acque calabresi, dagli oblò spuntano due teschi umani. Nelle testimonianze dei profughi nei campi di detenzione libici, voci drammatiche di uomini e donne che raccontano la loro odissea. Francamente, detto con tutto il rispetto, anch'io sono andato in onda qualche volta in condizioni un po' critiche, per non dire drammatiche dal punto di vista della salute, però al TG3 ci sono un sacco di giornalisti, credo che quello che abbiamo sentito è abbastanza imbarazzante. Sky TG24. Nucleare, l'Iran ammette attivo un altro impianto, coro di critiche dall'Occidente. Ma Teheran non si piega, il nostro programma non ha segreti e va avanti. Afghanistan, messaggio attribuito a Bin Laden, invita gli europei ad andarsene. G20, nella bozza finale un monito, la disoccupazione può ancora crescere. Mezzo miliardo nei paradisi fiscali, ciclisti e piloti nel mirino della finanza. Divorzio e famiglie allargate a fondo del Papa sono la rovina dei bambini. Norme antifannulloni, Brunetta smentisce Repubblica, nessuna marcia indietro. Il procuratore di Palermo rivela, Berlusconi assoldò Mangano per paura dei sequestri. Sud e isole nella morsa del maltempo, piogge e frane in Calabria e in Sicilia. Vasco Rossi, ad ogni costo il suo nuovo singolo alla vigilia del tour. Lo stimo anche un genio perché, avendo migliorato tantissimo le condizioni del nostro paese, gli interventi che ha fatto determinati, io lo chiamo Remmida, è un esempio per tutti noi imprenditori, perché ci dà la forza ogni mattina di andare avanti. Lui con la sua forza tira avanti anche noi, il motore dell'Italia, gli imprenditori. Questo volevo dire e questo merita lui. Faccio un nuovo invito ai responsabili del comitato che vuole nominare, vuole proporre Berlusconi come premio Nobel per la pace. Prendete quest'uomo, assumetelo, fatelo diventare il paladino della vostra battaglia di libertà. Sentitelo ancora, si chiama Alessandro da Livorno, se volete vi forniamo il numero di telefono. Se ero una donna, una bella donna, mi sarei dato sicuramente al presidente, hai capito? Senza andare a cercare segni o cose, ma per la possibilità di essere stato a letto con lui. Avete capito? O voi donne che aspirate magari a ottenere qualcosa dal presidente del Consiglio, fatelo così, senza cercare un ritorno, ma semplicemente per la grandezza dell'uomo. Questa è una delle tesi sostenute da Alessandro da Livorno, ripeto, secondo me meriterebbe un posto d'onore tra quelli che propongono Berlusconi come premio Nobel. Perché? Sentitelo ancora. No, io sono un fan club della prima ora e Cruciani, quello che mi dispiace, io ascolto sovente, specialmente negli anni passati ascoltavo tanto, ora ho ripreso ad ascoltare il Sole 24 Ore, che è una radio che onestamente stimo tantissimo, stimo anche lei, però secondo me diciamo sbeffeggia un po' troppo il nostro presidente agli occhi di tutto il mondo, perché il Sole 24 Ore è ascoltata tantissimo e questo mi dispiace tanto. È un grande cruccio questo qua. Per lei. Delle persone, cioè di una persona intelligente anche come lei, a volte si lasci andare a delle considerazioni sul nostro presidente che sta facendo quello che sta facendo e si vede per noi, per i terremotati, per tutti, a volte non è giusto nei confronti del presidente. ...800-24-00-24... Non c'è un Radio Londra né per Filippo Facci come vuole qualcuno né per Antonio Di Pietro. Il Radio Londra di oggi è dedicato a Cosè Saramago, dopo vi leggerò alcuni suoi passaggi. C'è però un Antonio Di Pietro di pochi minuti fa, siamo riusciti a prenderlo, siamo riusciti a catturarlo grazie alla Gazzetta di Parma, al sito internet della Gazzetta di Parma, che ci ha dato l'occasione di mandare in onda l'ultima perla di Antonio Di Pietro. Pietro. A proposito dello scudo fiscale, per carità, provvedimento magari criticabilissimo, sentite in quali modi dal capo della resistenza antiberlusconiana. Un provvedimento criminale di un Parlamento mafioso che si accinge a varare lo scudo fiscale non per fare gli interessi degli italiani, ma per garantire a un gruppo di criminali, falsificatori di bilanci, evasori fiscali, colpevoli di reati tributari, di farla franca. Ancora una volta il nostro Paese è in mano a un gruppo di persone, di massoni, piduisti, criminali e mafiosi che fanno gli interessi propri ai danni del paese. Avete sentito? Parlamento mafioso, poi c'è stato un comunicato congiunto di Fini e Schifani. Parlamento mafioso e poi governo piduista, massone. Vabbè, insomma, roba da blog, da siti internet, cose di questo tipo. 800 24 00 24. Abbiamo catturato anche al volo la risposta di Emilio Fede. Me la mando così per farvi divertire un po'. Di Pietro. Mia personale, ma personalissima, da piccolo giornalista, ma Di Pietro. Ma perché dar conto ancora di quello che dice Di Pietro? Io mi chiedo perché dar conto, si può dar conto di quello che Di Pietro possa dire legittimamente nel suo ruolo di opposizione, ma quando si accusa il Parlamento, il resto del Parlamento, salvo lui, che sia mafioso, francamente, non merita risposta. Bene, andiamo a Filippo Facci, speciale Filippo Facci, a grande richiesta da parte di voi che ci mandate dei messaggi al 349-238-6666, perché innanzitutto per questa cosa qui, l'unica cosa per cui sono stato censurato dal giornale è stato il ministro Carfagna. Volevo scrivere qualcosa sul ministro Carfagna, sulla legge, sulla prostituzione, non mi è stato possibile. Sentite. Il caso del ministro Carfagna. Cioè, io ho 42 anni, faccio giornalista da 22, ne ho passate di ogni colore e io non posso avere il problema del ministro Carfagna. Cioè, non posso avere il problema di non riuscire a scrivere di una persona che 3 anni prima di entrare in politica era a Piazza Grande a fare la showgirl. Non posso. Cioè, è l'unico argomento in assoluto che mi è stato censurato al giornale. Non potevo scrivere, non ho potuto scrivere che il decreto sulla prostituzione che si disse aveva fatto lei, secondo me era una sciocchezza, era polvere sotto il tappeto. È l'unico argomento che, avendolo trattato sempre in termini molto critici a Mediaset, insomma, ci sono stati dei grossi problemi. Ripeto, è una questione di dignità professionale, io non posso avere il problema del ministro Carfagna. Io devo poter dire quello che voglio del ministro Carfagna, punto e basta. Questo è uno dei motivi per cui, oltre alla presenza di Feltri, Filippo Facci è andato via dal giornale, se vi interessa. C'è però un'evidente contraddizione, lo dico con tutta l'amicizia la stima che ho nei confronti di Facci. Lui dice: io sono stato al giornale un sacco di anni, l'unica cosa sulla quale sono stato censurato, sulla quale mi è stato detto è meglio che non scrivi, è stato il ministro Carfagna. Beh, insomma, credo che sia una posizione assolutamente privilegiata rispetto magari ad altre persone. La risposta sulla libertà di espressione, di stampa in Italia. Sentite alla domanda di Corrado Formigli. Tu hai sempre preso in giro quelli che gridavano al regime, quelli che gridavano al fascismo, insomma hai fatto sempre un po' il verso, sì. No? Ai girotondini, insomma quelli che stavano sempre sulle barricate, no? Aspettare il nemico. Adesso, al di là del folklore, secondo te c'è un problema di libertà di informazione nel nostro paese, un restringimento degli spazi di libertà? Sì. Sì, la risposta di Facci, non so se poi la domanda... la risposta proseguiva, credo di no. Leggendo oggi un'intervista sempre di Facci al magazine di Fare Futuro, alla Fondazione di Fini, in realtà si leggono cose molto molto diverse. Presenta il pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito. Vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No, s'apri il dibattito. Noi si voleva solo fare una chiacchierata con voi sui problemi della donna, poi alla fine tireremo le conclusioni. Scusi, io ho seguito un po' la questione, le donne incazzate e via, ma insomma la donna, o l'uomo. Ultima perversione della vicenda di Taranto viene da Carlo Giovanardi, fra poco ve lo faccio ascoltare. Carlo Giovanardi, esponente del PDL, che dice: beh, qui adesso ci sarà un uomo discriminato, perché un uomo della giunta maschile della provincia di Taranto dovrà far posto a una donna. Sentite. Ma mentre si parla in teoria di rispettare i diritti di tutti, lì ci sarà un signore che verrà buttato fuori dalla giunta in quanto uomo. E mentre si parla di... perché un signore che ha un nome e un cognome, solo perché di un determinato sesso, in questo caso uomo, sarebbe viceversa se fossero state tutte donne, perde il suo incarico e il suo partito che ha indicato lui perde il diritto di indicare una persona di fiducia per mettere una donna chiunque. Per mettere una donna chiunque è strepitosa come cosa, ma vedete dove può arrivare la follia di questa vicenda di Taranto, che magari qualcuno dirà io sono stato discriminato. E per esempio al TG5, per passare a cose meno serie, è stato deciso che alle 13, nell'edizione delle 13, a condurre ci saranno solo donne, dunque non più uomini. Potrebbe intervenire il TAR anche in questo caso? Che dite? Stefano da Milano, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Beh, intanto prima di tutto il mio sogno proibito è vederla condurre anno zero con introduzione di Brunetta e Santoro che fa il giudice a X Factor. Non succederà mai, per cui... Sarebbe bellissimo, ogni sera la vorrei vedere. Anche perché non è una cosa cui non penso nemmeno nei momenti più tristi della mia vita, si figuri. No, poi un'altra cosa, sono un elettore di destra. E va bene, esportare. Poi non è importante sottolinearlo, come ripeto sempre. No, comunque. No, questo è il cappello introduttivo, nel senso che vorrei esortare i collaboratori di Berlusconi, vedi Bonaiuti, Letta, lo stesso Brunetta, a calmare un po' gli animi di Berlusconi, perché si sta autodistruggendo. Con che cosa, scusi? Con tutte le sue dichiarazioni, l'ultima è quella di Vespa al terremoto, oppure l'intervento che ha fatto quando c'era Zapatero ospite in Italia. Cioè sono cose dannose per Berlusconi, secondo lei? Sono cose dannose. Beh, dai risultati che ottiene Berlusconi non sembra. Noi le abbiamo criticate come queste cose perché siamo osservatori, non è che facciamo i partigiani, però... No, ma le mie considerazioni sono da elettore. Sì. Io ho cambiato canale dopo la trasmissione di Vespa, a parte che sembrava il giovantino di 20 anni, ed è troppo trucco, gli anni hanno messo veramente troppo fard probabilmente. E poi io credo veramente che le prossime elezioni, se non c'è Fini al posto di Berlusconi, avrà una dura lezione dai suoi lettori, non da me personalmente, nel senso che comunque... Beh, Stefano, mi sembra presto però, Sì, no, presto, certo, no, ma siccome già hanno iniziato la lotta politica anche l'opposizione, vedo che insomma ha tirato fuori gli artigli da subito, quindi insomma sono già in campagna. Ma l'opposizione mi sembra messa maluccio, ecco Stefano. Sì, assolutamente, questo è in dubbio, ma come elettore di destra io vedo... È deluso da alcune esternazioni, da certi modi di fare di Berlusconi, ho capito. Bianca ci chiama da Parma, buonasera. Buonasera. Come sta? Insomma, non c'è male, un po' di raffreddore, ma tutto bene. Non la suina. Speriamo. Allora, fa male la suina, alla fine si guarisce. Sì, insomma, vedremo, insomma, se tutto l'allarmismo che... Se non è accompagnata da altre cose. No, è come un'influenza, l'importante è che il soggetto sia sano o che non... Non mi dica che è ossessionata pure lei da questa suina. Io no, sono ossessionata per il carico di lavoro che porterà agli ospedali, se è vero che la diffusione sarà così importante. Ma lei è medico dunque, se no... Insomma, sì, sono medico. Vabbè, non è un crimine, non è un mistero, insomma, Bianca, no, ce lo può anche dire, insomma, è un mestiere rispettabile... No, basta, adesso tutti ce l'hanno con noi, per cui... E perché? Lei, Ale, si riferisce alle denunce contro i medici, queste cose qui? Insomma, è un periodo... Vabbè, è una storiaccia quella, sì. Non è facile, però... Di che mi voleva parlare, Bianca? Ma io dello scudo fiscale, non sono un esperto di politica e neanche di finanza. Meglio, qual è la sua opinione? Io, da quello che capisco, o che mi sembra di capire... Penso che sia una manovra attualmente indispensabile per far rientrare un po' di soldini nelle casse dello Stato e forse poter sostenere anche tutto il supporto sociale necessario a far fronte al periodo di cassa integrazione, insomma tutte queste cose che stanno accadendo e accadranno forse per qualche anno ancora o per un anno, insomma io mi auguro poco. Però? Però dico, c'è un però. Non è la prima volta che accade una cosa di questo genere e neanche tanto tempo, per cui... No, devo dire la verità, ieri ho letto un articolo di Maurizio Stefanini sul Libro in cui si elencavano i numeri dei condoni in Italia. Il primo risale addirittura, secondo i calcoli preziosi di Stefanini, al 1947. Cioè, è il paese, sicuramente l'Italia, in cui i condoni... ci sono stati più condoni che in ogni altro paese del mondo, su questo non c'è dubbio. E allora questa riflessione, cioè, mi porta appunto a pensare che forse poco viene fatto, uno sicuramente per incentivare gli investimenti nel nostro paese, comunque da parte di chi i soldini li crea, io ne faccio pochi, e poi che forse viene fatta poca educazione civica, viene poco valorizzato il bene comune, non lo so, insomma a me hanno insegnato che se sto bene io e faccio bene, staranno anche bene le persone intorno a me. Questo forse da parte di chi i soldini li fa, insomma, poco viene calcolato. Però, insomma, è un'opinione molto ignorante, per cui... Diciamo che se ci fosse un bel taglio alle tasse, come propone qualcuno, accompagnato a questo provvedimento, sarebbe meglio. Non c'entrano niente, sono due partite diverse, però magari sarebbe criticato di meno. Non lo so. Taglio alle tasse da parte di chi le tasse le paga, naturalmente, in maniera... Sì, quello sicuramente, però la questione non cambia, perché chi comunque porta i soldi all'estero fa una cosa non giusta, no? Una cosa non... No, certo, buona. Certo. Quindi insomma è sempre un atto deplorevole e quindi queste persone, se non adeguatamente incentivate a far diversamente, continueranno a farlo, sia che le tasse siano alte sia che le tasse siano basse. Sì, diciamo che contemporaneamente, come lei sa, si sta avviando, è una delle discussioni e una anche delle giustificazioni per questo scudo fiscale, si sta avviando una lotta ai paradisi fiscali. La ringrazio, Bianca. Ernesto da Roma, buonasera Ernesto. Buonasera Cruciani. Eccoci qui, dica pure. No, niente, io volevo dire che sono una di quei giorni che non mangio più, non bevo più, non dormo più. Che è successo? Male. Forse finirò per rimetterci la pelle, perché ho capito che il mio povero Partito Democratico purtroppo verrà distrutto a cannonate dal fuoco amico di questi bastonatori. Sarebbero i soliti bastonatori, questi conduttori, giornalisti, Concita De Gregorio, Ezio Mauro, Michele Santoro, Marco Travaglio. Cioè gli azionisti di maggioranza del Partito Democratico alla fine sono loro? No, sono loro che fanno il gioco di Berlusconi, perché ne parlano tutti i giorni attaccando, dandogli le prime pagine o lo spazio in televisione, e tutto questo fa ingrossare ed ingrassare il consenso di Berlusconi, il quale scientificamente e sapientemente tutti i giorni, tutte le settimane fomenta questa sparatoria, questi fuochi artificiali, con uscite tipo sono il miglior presidente del Consiglio d'Italia, Farabutti, poveri tate con questa stampa, si fa fotografare con cinque ragazzi nel giardino di Arcore, cioè è lui stesso che alimenta l'anti-berlusconismo, perché ha capito bene, secondo me è studiato al tavolino. Va bene, ho capito quello che lei vuole dire, tra l'altro l'audio è un po' disturbato, dunque passiamo a Antonio, provincia di Viterbo, buonasera. Buonasera Giuseppe Cruciani. Dica. Senta Cruciani, poi dice a volte uno parla sempre del nostro Presidente del Consiglio, non so se lei è al corrente dell'ultima marachella che ha combinato durante l'incontro con il Presidente Obama. Non so nulla, ho letto, ho sentito il titolo di qualche telegiornale, visto sì, qualche infatti, servizio. Infatti, ma scusi, tipo alla bubusetta della signora Merkel, dice che in modo gestuale si è rivolta verso la First Lady con modi francamente... Scusate, ma chi io ho visto quella scena, non mi sembra niente di particolarmente drammatico, particolarmente volgare, abbia pazienza. Quel signore è il nostro rappresentante nazionale, prossimo forse premio Nobel per la pace sua, ma io non capisco francamente, ma in quelle determinate situazioni c'è un'etichetta, c'è un modo, c'è una rappresentanza nazionale, non si può fare quelle cose francamente in quel modo. Scusi, ma guardi, mi si accorda talmente tanto, perché ripeto, ne sta combinando una dietro l'altra, ma non c'è un consigliere, non c'è un... Antonio, si possono criticare tante cose, però insomma, adesso parlare di gaffe perché uno fa un po' il verso alla bellezza di Michelle Obama, fa un po' il galante, ma in maniera mi sembra del tutto così innocente, non parlerei di gaffe, ecco. Sì, mi permetta l'ultima cosa. Prego. Ma possibile che non è che sta salutando la Sora Maria della porta accanto, sta in un summit internazionale. Ma lei ha visto per caso altri premier che hanno fatto la stessa cosa? Io francamente, guardi, resto veramente allibito. Sì, Antonio, che sia un presidente del Consiglio sui generis, su questo non c'è dubbio, che nel caso particolare si possa registrare qualche volgarità nei confronti di Michelle Obama o qualche rottura del protocollo diplomatico, francamente non mi sembra. La ringrazio. Giovanni Florido, presidente della provincia di Taranto, l'uomo più intervistato anche da noi, peraltro, negli ultimi giorni. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, io dico, quando finisce questa telenovela? Perché lei è stato ospite questa mattina anche a Radio 24. Ha detto che stava per nominare le donne, i partiti non gliel'hanno dati, i nomi, poi è intervenuto il TAR, ma lei già stava intervenendo. Gli assessori si sono dimessi, lei ha respinto le dimissioni. Che succede adesso? Beh, succede che nelle prossime ore io, come ho già detto, mi adeguerò all'ordinanza del TAR. Però questa questione pone un tema più generale e che vedo che ci sono in giro anche nei partiti che sostengono la mia coalizione molti politicamente corretti. Su questo non c'è dubbio. Peccato che? Peccato che poi quando si devono trovare insieme, allora un presidente, un sindaco, un presidente di regione, un presidente di provincia, un sindaco, se fanno la giunta da sole è un despota, se la fanno d'intesa con i partiti, poi trovano i partiti che nei loro criteri di selezione pensano a tutto fuori che mettere le donne e alla fine loro fanno i politicamente corretti e il presidente è massacrato. No, su questo lei ha ragione, però io c'è un cortocircuito che si è innescato su questa vicenda, perché è vero o no che esiste nello statuto una norma della provincia di Taranto che impone una rappresentanza femminile? Sì, mi sembra, no? Ho concordato un criterio con i partiti, io sono arrivato a due giorni... No, ma chi l'ha messa quella regola, chi l'ha messa nello statuto? Lei? Noi, ma guardi che avevo nella giunta, io ho il secondo mandato. Sì, lo so. Noi avevamo due donne nella vecchia giunta, non è che... Quindi noi abbiamo modificato noi lo statuto, io però sono arrivato a due giorni prima del consiglio, dove dovevo presentare la giunta, dove il partito che mi aveva garantito che mettevano una donna, per equilibrio interno sono arrivati a mettermi un uomo. Ci sarebbe stata solo una donna allora? Ci sarebbe stata solo una donna che non mi... No, per carità, ma guardi, io sono contrarissimo a qualsiasi tipo di quota, per cui non è che mi si deve giustificare su questo. Sarebbe stata solo una donna. Dopodiché le dico questo, che io non mi sono trovato neanche quell'indicazione, dopodiché ho dichiarato immediatamente a insediata la giunta che in corso d'opera, dopo le ferie, avrei messo mano alla giunta. E il poi è arrivato prima di me. D'accordo, e questo qua sono cose che sappiamo. Ora voglio dire, ma lei, conoscendo questa norma, non poteva, fregandosi delle indicazioni dei partiti, nominare comunque una, due, tre donne all'interno della giunta? Assolutamente sì, potevo, ho scelto, mi rendo conto a questo punto, valutando gli effetti, sbagliando, ho scelto di rimanere dentro un equilibrio di partiti per poi sistemarla dopo qualche mese. Mi rendo conto che in Italia due mesi senza una donna in una giunta provinciale diventa un problema nazionale. Avevo sottovalutato questo. Guardi, io Florido, non, purtroppo, Florido, lei deve fare il dittatore. Io sono per i presidenti dittatori. Ha ragione, ma non dittatori nel senso di... Guardi, le posso dire che stasera sono stato ad un'assemblea del Partito Democratico, sa che si sta votando per il congresso, e un vecchio pensionato mi ha detto: guarda presidente, tu puoi avere tutta la ragione, ma hai solo una colpa, dovevi decidere tu. Ma è così, perché poi devi fregare. Certo, lo sa, perché io intendo presidente dittatore non nel senso di pietrista del termine, presidente che decide. Allora, c'è una regola, secondo me assurda questa regola, mi dispiace che l'abbiate approvata voi perché è una regola ridicola, perché gli assessori devono essere bravi, donne o uomini che siano. Se ci sono donne brave va benissimo, ma se non ci sono donne capaci sul territorio, competenti, se ne può fare anche a meno, come degli uomini peraltro. Per cui è una regola secondo me me assurda, però esiste questa regola, lei doveva decidere in piena autonomia. Poi ha ragione lei, quando uno decide in piena autonomia gli danno del dittatore, quando invece sente l'opinione dei partiti si dice è troppo vicino alle logiche, no, spartitorie, clientelari dei partiti. Purtroppo lo so che la scelta è difficile. Sì, però io le posso dire questo, così per... Pronto? La sento. No, io le voglio dire questo, guardi, la nostra norma, lo statuto, guardi, io non sto ricorrendo al TAR, sennò diventa un altro problema nazionale però. No, non lo faccio. Però, guardi, però le volevo dire questo, la nostra norma dice che nella composizione della giunta io devo muovermi per garantire la presenza di donne di entrambi i sessi, va bene? Sì. Non c'è una quota, non c'è scritto che devi mettere uno, due o no, tre. No, certo. Ah, è una manifestazione, lo sa cosa ha introdotto la norma del TAR? Ha detto che il mio statuto è non, come io pensavo, programmatico. Sì, cioè di indirizzo. Di indirizzo. No, il mio statuto dice, l'ordinanza del TAR è precettivo. Io non riesco vincolante, a capire... cioè vincolante. Precettivo, nel senso è ordinativo, nel senso se tu lo scrivi lo devi fare, diventa legge. Ma lo sai i tribunali come sono, quando si mette di mezzo il TAR è finita. Lei lo sa quanto è difficile ormai governare con tanti tribunali, è complicato. No, perché poi però... si finisce in tribunale, come lei sa, insomma. Sì. Senta, no, ma una cosa, a questo punto come se ne esce? Io guardi, anche qui però, per concludere il gioco sto provando, con tutti i partiti ai quali farò un appello anche pubblico. Adesso una parziale soluzione l'ho già trovata e nelle prossime ore risolverò. E poi inviterò tutti i partiti a non fare i politicamente corretti, ma a dare i nomi di donne, se ce l'hanno. E vabbè, se ce l'ha, ma è possibile che non ci sia una donna? Ce n'erano due, l'ha fatte fuori le due donne? No, quelle due. Una è diventata parlamentare, non l'ho fatta fuori. No. E l'altra non si è manco più candidata. Per cui non ci sono. Ci sarà una donna capace di fare l'assessore a te? Ce ne sono centinaia e vedrà che ne metteremo di brava. Vabbè, lei si è preso la sua responsabilità e questo le fa onore, Presidente, perché dice devo decidere io. Le chiedo l'ultima cosa. È curioso che le prime due persone che hanno detto bene il TAR, la sentenza del TAR fa giustizia di qualcosa di grave che è accaduto a Taranto, sono stati nell'ordine il ministro Carfagna e il segretario del suo partito Franceschini. Si rende conto? Me ne rendo conto, anche se la dichiarazione di Franceschini però letta tutta per intero non è male, perché dice che la politica si deve assumere responsabilità e non deve determinare questo, però che lui sa che il presidente Florido lo sta già sistemando. Ma perché adesso è arrivata, cioè gli assessori si sono dimessi e poi lei ha respinto le dimissioni? Guarda, devo dire, io stamattina sono arrivato in ufficio tardi, ho trovato questo loro comunicato. No, loro hanno spiegato nel comunicato, loro hanno inteso con questo gesto favorire, no, la mia decisione, nel senso togliere l'ostacolo, no, nel senso che io mi facilito, ovviamente le loro dimissioni mi avrebbero molto facilitato il compito. Perché e allora perché la respinto? Le ho respinte perché credo che non bisogna aggiungere ad un problema un altro problema, noi non abbiamo bisogno di bloccare l'attività della giunta e di riaprire una discussione. Io ho fiducia in quella giunta, farò quello che il TAR ci ha ordinato di fare, ma la giunta nella sua quasi totalità rimarrà in piedi. Chissà chi uscirà e chi entrerà, poi ci sarà un gioco naturalmente sul nominato. Chi è il nominato? Mi dica chi è il nominato. No, il nominato, io spero che in queste ore il nominato dica lui che favorisce. Ma non è che lei mette un altro assessore, aggiungiamo un assessorato, che può essere pure... uomo, sostituisco un uomo con un uomo. No, ma no, si potrebbe aggiungere una donna senza togliere tutti gli uomini che ci sono, si può fare? Prego, non ho capito. No, dico, si può inserire una donna mantenendo lo stesso numero? No, perché guardi, c'è una norma del testo unico che dice che le giunte comunali, provinciali, devono essere al massimo un terzo del numero dei consiglieri, siccome noi abbiamo 30 consiglieri. Ma non si può fare un assessore? Il massimo è 10, quindi non ho, altrimenti l'avrei già praticato. Ah, ecco. Senta, le è piaciuta la battuta che secondo me non è una battuta di Giovanardi questa mattina qui, quando lei è stato ospite a Bianco e Nero, che ha detto che alla fine ci sarà il vero discriminato sarà l'uomo. Secondo me, io sto vivendo questa cosa con un po' di tristezza, perché comunque adesso c'è una violenza al contrario, perché una persona che non ha colpa dovrà uscire perché devo far posto per obbligo ad una donna. Vabbè, se ne farà una ragione. Se ne farà una ragione, comunque io penso che su questo tema, te lo dicesse lì prima, bisogna che l'Italia ripensi seriamente. Io sono sono contro un'esasperazione delle quote, sono invece per una cultura della, del favorire le occasioni di parità, però sono cose diverse. Ecco, questo era lo spirito con cui noi facciamo quella norma dell'articolo 48. Però avrebbe dovuto nominare lei direttamente, questo l'ha detto, la ringrazio, buona serata. 19:54:53, Roberto da Milano. Roberto. Buonasera Cruciani. Dica. No, sono con lei sul fatto della follia che un tribunale debba stabilire il conduttore televisivo, il programma, l'ora, il contenuto e tutto. Poi abbiamo questa follia di, per tribunale che decide che le quote rosa devono essere rispettate, per cui in questo paese che è più divertente che abbia mai vissuto, secondo me il surreale sta per arrivare. Secondo me sa come va a finire, che tra un po' ci sarà qualche azienda che si troverà un TAR che gli dirà no, devi assumere un po' più donne, un po' meno, un po' più gay, un po' più bianchi, un po' più gay, un po' non gay e tutto quanto. Cioè, no, siamo... guardi, fra poco arriverà il TAR su TG5, già me lo immagino, qualcuno, magari qualche collega conduttore maschio che si rivolgerà al TAR perché trova ingiusto che il TG5 delle 13, come ha deciso il direttore, sarà condotto da sole donne. Titoli del TG5. Teheran ammette: abbiamo un secondo sito per arricchire l'uranio. Obama, accordi violati, e con Inghilterra e Francia minaccia sanzioni. No italiano allo sviluppo militare del nucleare. Bin Laden agli europei, via dall'Afghanistan. Offensiva della Guardia di Finanza contro l'evasione fiscale, scoperti conti all'estero per mezzo miliardo. Nel mirino anche il ciclista Rebellin e il pilota di Formula 1 Liuzzi. Sud e isole flagellate dal maltempo, 4 morti in Sardegna, frane e nubifragi in Calabria, disagi e circolazione difficile in Sicilia. Drogato travolge e uccide un pedone sordomuto a Roma, la fuga, poi l'arresto. Libero il 19enne che a Bari ha investito 2 podisti uccidendoli. Nelle case degli italiani ci sono 44 milioni di animali domestici, cani, gatti, uccelli e anche qualcosa di più esotico. Per loro spendiamo quasi 4 miliardi l'anno. Successo dei nuovi incentivi per l'acquisto di biciclette. In 4 ore ne sono state vendute oltre 7.000 per un importo di oltre 1 milione. E dopo TG5 andiamo a sentire TG1. C'è un secondo impianto nucleare in Iran. Obama e i leader europei contro Teheran. Subito ispezioni o sanzioni più severe. Al G20 di Pittsburgh, patto per crescita e sviluppo sostenibile, misure contro la disoccupazione, d'ora in poi al G8 solo ruolo politico. Lotta all'evasione, da inizio anno scovati 4 miliardi di capitali all'estero, nella rete della guerra di finanza sportivi famosi e imprenditori. Rifiuti speciali nell'immondizia, esami impossibili, a Gela siamo entrati nell'ospedale dove c'è il primario per l'urgenza ma non il reparto. Avviso ai turisti, da internet la classifica dei luoghi più a rischio per lo scippo dei portafogli, città italiane al secondo posto. Cassano al TG1 lancia un messaggio a Lippi, chiamami nazionale, sono cresciuto e sogno il mondiale in Sudafrica. E torna TV7, storico rotocalco settimanale del TG1, stasera inchiesta sulle donne musulmane in Italia, le navi dei veleni e Sharon Stone che si confessa in un'intervista esclusiva. Eccoci qui, andiamo a Catanzaro. Raffaele, buonasera. Buonasera dottore. Prego. Allora, io volevo intervenire sulle dichiarazioni di Pietro. Io premetto che non voto per l'Italia dei Valori, quindi non sono un suo simpatizzante, però bisogna dire che al di là degli aspetti folcloristici con il quale spesso dice le cose, bisogna ammettere che purtroppo c'è una gran parte di verità in quello che Di Pietro ci dice. Quando noi parliamo che in Italia non c'è mobilità sociale e che su diverse cose non ci si spiega perché avvengano, è probabilmente perché i massoni e i mafiosi realmente si sono nel Parlamento. Cioè lei è d'accordo quando, scusi un attimo, lei è d'accordo quando Di Pietro dice ancora una volta il nostro paese è in mano a un gruppo di persone massone, piduiste, criminali e mafiose che fanno gli interessi propri e danni del paese. Lei pensa che questo sia vero? Onestà intellettuale le persone istruite dovrebbero averla tutta, soprattutto i giornalisti. Dovremmo ammettere che purtroppo questo avviene. Io questo lo dico con dolore perché amo il mio paese e provengo da una regione che da questo punto di vista purtroppo può dire tanto. Sì, scusi Raffaele, però io vorrei rimanere su questa frase perché qui non stiamo parlando di infiltrazioni di singole regioni. Stiamo parlando di una frase ben precisa: il nostro paese adesso, dice Di Pietro, è in mano a un gruppo di persone massone, piduiste, criminali e mafiose che fanno gli interessi propri e i danni del paese. Cioè, secondo lei questa affermazione è corretta? Ma sì, purtroppo sì. Io credo che in Parlamento ci sia una buona... anche questo dovuto al sistema elettorale. Ed è un Parlamento mafioso, come dice Di Pietro, è un Parlamento mafioso. Ma questo, guardi, Parlamento mafioso sicuramente è un Parlamento dove la malavita e la corruzione sono presenti in maniera anche massiccia. Vabbè, e questo lo dicono molte indagini, voglio dire, anche internazionali, sui quali... Guardi, Raffaele, non c'è nessuna indagine che sostiene che il Parlamento attuale è mafioso, come dice Di Pietro. Abbia pazienza. No? Come, scusi? È uno dei governi a rischio per l'influenza della criminalità organizzata. Cioè, secondo lei questo governo è un governo che infiltra, il governo nazionale infiltrato dalla criminalità organizzata? Ci sono degli esponenti. Chi sarebbero che questi fanno esponenti? Riferimento anche alla criminalità organizzata, purtroppo. Nel governo? Sì. Sarebbero, scusi? Ma guardi, io non lo vediamo dalle cronache giudiziarie questo. Ma quali cronache giudiziarie? Di che cosa? Ci sono dei partiti i cui organigrammi, insomma, sono ben chiari da chi sono formati. E allora, Raffaele, lei ha detto un'altra cosa, lei non sta parlando di partiti, lei sta parlando del governo, cioè lei sta dicendo il governo. Ce ne sono, come no? Il governo è fatto di personalità infiltrate dalla criminalità organizzata, lei questo sostiene? Ma io penso che ci sono molta gente che diciamo non fa nulla, anzi favorisce la criminalità organizzata, in alcuni casi purtroppo credo il sospetto che sia anche organica. Va bene, la ringrazio. Francesco, provincia di Frosinone, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, e complimenti per la trasmissione innanzitutto. Dica. Io volevo ritornare allo scudo fiscale, e secondo me è una legge che non porterà né giovamento e purtroppo non farà il bene del paese, capito? E secondo me la cosa che si sbaglia molto è che ci sono molti artigiani, tipo barbieri, che hanno delle attività che qui in Italia denunciano 5.000 euro l'anno. Mi dica lei. Questo è uno scandalo, non c'è dubbio che questo sia uno scandalo. Che è andato a chiedere un prestito di 20.000 euro, ha portato la sua fattura di quando fatturava l'anno, ne fatturava 5.000. Francesco, ma questo è uno scandalo su cui bisognerebbe fare una grande battaglia, da questo punto di vista non c'è dubbio. Dunque? A me mi è capitato, per esempio, che il barbiere mio mi stava facendo la barba. E sono passati dei finanzieri in borghese con la macchina, hanno visto che lui stava lavorando, erano le 9 di mattina, sì. E poi sono entrati dentro e gli hanno detto guardi, mi faccia vedere. Allora lui ha detto no, io ancora non ho cominciato adesso, e loro ci hanno detto guarda, siamo passati 5 mesi fa e stava facendo la barba a una persona, cioè, questo si è beccato 300 euro di multa. Che mi avevano fatto pure a me la multa. Vabbè, Francesco, adesso questo piccolo episodio per dire cosa? Per dire che alla fine siamo noi che nel nostro piccolo dovremmo fare di più. Sì, ma questo può valere per tutti naturalmente. Perché ci ha fatto l'esempio del suo barbiere? No, faccio l'esempio del mio barbiere che come vale. Perché uno tartassato, dice lei? No, è tartassato perché sono 3-4 volte che lo pizzicano, capito? Ho capito, allora cerchi di aprire il negozio quando deve aprire, non prima, non so cosa dirle. No, io non sono io il barbiere. No, ma ho capito che lei non è il barbiere, è un suo amico, magari è lei, non lo so, ma va bene lo stesso. Ma ho capito, Francesco, perché ci fa questo esempio, lo ripeto per la terza volta. Le faccio questo esempio perché la maggior parte di chi ha la libera attività in Italia è così, È così, cioè? I colleghi miei che sono infermieri, fanno la stessa cosa, capito? Lavorano in nero, rubano il lavoro a gente che sta disoccupata, è così, Va bene, grazie Francesco. I titoli della 7 se li abbiamo. L'Iran infrange la moratoria nucleare approvata ieri dall'ONU e comunica l'esistenza di un secondo impianto per l'arricchimento dell'uranio. I grandi del G20 avvertono no a violazioni degli accordi, altrimenti dure sanzioni entro dicembre. Nuovo messaggio audio di Bin Laden agli europei, dice via dall'Afghanistan. 007 del fisco in azione contro i VIP evasori. Individuato quasi mezzo miliardo di euro di capitali illegali all'estero. Accertamenti in corso su un pilota di Formula 1, Vitantonio Liuzzi, e un asso del ciclismo, Davide Rebellin. La nave dei veleni nel Tirreno. Dalle indagini emergono nuovi e oscuri misteri. Due teschi sarebbero intrappolati nel relitto del mercantile affondato dall''Ndrangheta nel mare di Calabria. Beltroni in procura a Paola. Sono novità che potrebbero riaprire il caso Alpi. Superbike, clamorosa protesta ad Imola. Piloti in sciopero contro la pista poco sicura. In diretta sulla sette. Volevo parlare del Nobel e dare la mia adesione a Silvio Berlusconi, il nostro presidente, perché per quanto io viaggi nel mondo e in Europa e anche negli Stati Uniti, anche nel Regno Unito, eccetera, sto incontrando sempre più persone che stimano questa persona, cioè il nostro presidente. E penso che l'immagine dell'Italia sia migliorata dell'80%, come le preferenze del presidente sono salite al 68-70% in Italia. Ha incontrato i grandi, i suoi pari e forse anche più come grandezza di Stato, e ha fatto in modo di poter riportare la pace in Georgia, di ristrutturare delle ferite importanti che hanno condotto a una sicura pace per qualche tempo. E quindi, come ripeto, ho avuto occasione di vivere in Russia per 2 anni, e anche quando era caduto, eccetera, era un personaggio già amato nell'84. Io credo che più meritevole di lui a questo punto, per quanto poca conosco gli altri, io conosco lui. Vi prego, voi che volete Silvio Berlusconi, premio Nobel per la pace, il comitato promotore, ci sono un paio di avvocati, diversi senatori, deputati, assumete quest'uomo, Alessandro dalla provincia di Livorno, abbiamo il numero, tutto, perché credo che sia il migliore testimonial di questa campagna che va ad iniziare per il 2010. Giuliano dalla provincia di Salerno, buonasera. Scusami. Dica. Prima di prendere inizialmente, beh, le volevo consigliare di trovare qualcosa di divertente, come fa per la resistenza anti-berlusconiana e la De Londra, anche per questi soggetti quantomeno, diciamo, divertenti, no? Che esaltano la figura del Presidente del Consiglio. Li mette in compagnia di Belpietro, Giordano, e facciamo uno sacchetto anche per loro. Per Belpietro e Giordano non c'entrano niente con quelli che vogliono proporre il premio Nobel, eh? Cioè lei, no, dice, no, lei per dice... l'esaltazione e la figura del Presidente del Consiglio. Ma non mi pare che Belpietro e Giordano siano lì ad esaltare ogni giorno la figura del Presidente del Consiglio. Comunque, se vuole troviamo una rubrichetta, eccetera. Ma guardi che noi non guardiamo in faccia a nessuno, non è che abbiamo problemi a criticare Berlusconi o... quando è il caso randelliamo, La seguo ogni giorno, quindi questo è vero, vedo atto di questo. Perciò, appunto, poi Radio Londra, perché... Radio Londra è una rubrica che ho voluto io, perché penso che in Italia ci sia un tasso di anti-berlusconismo eccessivo, un'ossessione anti-Berlusconi, e dunque ci sono questi qua che fanno finta di essere sul monte della resistenza, che ogni tanto fanno dei proclami così un po' ridicoli sulla dittatura. Noi li mettiamo un po' alla berlina, tutto qui. Anche un po' di fanatismo, però, se mi permetto di poterle dire. Comunque, da parte di chi? Delle persone verso Berlusconi. Bah, sì, ma certo. Quindi penso sia uguale. Comunque, detto questo, vorrei fare solo una considerazione di carattere economico-tecnico, perché io sono un ragazzo di 23 anni, laureato in ingegneria gestionale, e quindi sono abituato a vedere le cose in maniera aziendalista, quindi anche la RAI non la considero come servizio privato, ma servizio pubblico, ma molte volte la analizzo come un'azienda. Allora le volevo dire, Berlusconi con Porta a Porta, Best ha fatto il 13% di ascolto, ieri sera anno zero è arrivato al quasi 23%. Berlusconi aveva motivato, il vertice RAI avevano motivato il 13% di Porta a Porta poiché l'informazione in prima serata non fa ascolti, e ieri è stato un po' sbugiardato dalla trasmissione anno zero, quindi comunque almeno potrebbero dire che è stata una scelta quantomeno negativa quella di portare in prima serata Porta a Porta. È un fallimento, perché non voglio metterla in considerazione o in rapporto con altre trasmissioni, ma lo stesso tipo di trasmissione c'è stato un gap notevole. Giuliano, non credo che sia possibile fare un paragone, non sono un esperto di trend di trend di ascolti da questo punto di vista. Sono giorni diversi, sono programmi diversi, un programma è consolidato nella seconda serata come quello di Vespa, l'altro programma è un programma consolidato in prima serata. Non so, la concorrenza forse era diversa, anche se c'era, credo, una fiction su Padre Pio, non mi ricordo su che cosa, no, su Padre Pio, su qualcos'altro di religioso, su un altro canale, Mediaset, che comunque ha fatto concorrenza certamente a Santoro. Non so, non ne so dire, no, non credo che siano paragonabili però le due serate. La pace tua, guarda anche tu, l'Abruzzo si risveglia incredulo, la neve e il sole che si incontrano, e la tua mano è qua. C'è un presidente, sempre presente, che ti accompagnerà. Siamo qui per te, cuore e anima, un Nobel di pace, Silvio Grande. Beh, ma a finire che anche noi aderiamo... Parlo della Zanzara, non sto scherzando, alla campagna del comitato per Silvio Berlusconi, premio Nobel. Abbiamo qui uno dei firmatari, credo anche abbastanza convinto, l'onorevole Giampiero Catone, naturalmente del PDL. Buonasera. Buonasera. Allora, Catone, come stanno le cose? Ha possibilità questa candidatura? Perché lei è così convinto che Berlusconi meriti il premio Nobel per la pace? Guardi, io parto da una riflessione un po' più ampia. Io credo che sostanzialmente sia l'Italia a meritare un premio Nobel per la pace, perché se guardiamo la storia degli ultimi 60 anni italiani, io penso che realmente noi ci siamo prodigati talmente tanto per la pace nel mondo, talmente tanto per la cooperazione, talmente tanto, diciamo, per mantenere un giusto equilibrio internazionale, che fondamentalmente nessun'altra nazione, se ci fosse un premio per la pace per una nazione, potrebbe ambire a tale premio se non l'Italia. Ecco, io, Catone, però su questo tutti possiamo anche essere d'accordo, no? Però mi lasci finire. No, no, dico, ma perché un personaggio che divide così tanto come Berlusconi? Qui non si tratta dell'Italia. Voi proponete Silvio Berlusconi per certi motivi, per la questione della Georgia, della Russia, la Libia, altre cose, o no? Sì, sì, ma se noi partiamo da questo presupposto, diciamo in breve, per vedere quando è che l'Italia in effetti è balzata, diciamo, all'attenzione internazionale, si imposta all'attenzione internazionale. Si è imposta con pochissimi personaggi, io credo, per carità, forse ne dimenticherò qualcuno, ma parliamo di personaggi come presidenti del Consiglio, possono essere Andreotti, Craxi e Berlusconi. Ora, partendo da questo assunto, Silvio Berlusconi... Anche nel passato c'era qualcuno, però, eh? Sì, sì, sì, però diciamo quelli che nell'ultimo trentennio noi abbiamo visto sono comunque Craxi, Berlusconi, io parlo dell'ultimo trentennio, Craxi, Andreotti, Berlusconi, parlo di presidenti del Consiglio che hanno dettato, diciamo, delle regole in Europa e anche oltre Europa. Vabbè, anche Prodi è stato presidente della Commissione Europea da questo punto di vista. Sì, ma attenzione, qua non parliamo di presidente della Commissione Europea, qua parliamo di rappresentanti del governo italiano e quindi di un'azione politica italiana che hanno fatto sì che l'Italia fosse una delle nazioni fortemente ascoltata nel mondo e che si potesse imporre, ognuno con una propria strategia. Questo però è un po'... Però Berlusconi, andiamo al... Cosa in più? Che cosa in più? Che non solo ha rappresentato in pieno quello che è stato l'azione anche di alcuni suoi predecessori, quindi imporre l'Italia, imporre le decisioni d'Italia, quanto più è diventato un mediatore internazionale capace di risolvere grandi crisi internazionali, oltre quello che già si sa, per cui che vogliamo parlare della Cecenia, della Libia, di tutte queste cose. Cioè che la Georgia, no, la Cecenia, la Georgia, attenzione. La Georgia, la Libia. La Georgia, la Cecenia è un po' diverso, lei lo sa, sì, no? Sì, sì. Che diciamo tutti quanti sanno, c'è stato un Cioè, Tbilisi è, lei lo sa dove si trova, sì. Dove si trova? Tbilisi. Beh, non lo so, però se lo leggessi in internet lo saprei, lei che dice? No, ho capito, ma siccome Berlusconi, lei propone Berlusconi anche per il fatto di essere stato mediatore nella Georgia, lei Tbilisi lo saprà? Sì, ma guardi, io le sto dicendo che non è che propongo Berlusconi per tutte le cose che si fanno. Vabbè, non sa dove è Tbilisi, io sono, va bene, no, non lo so, ma lasci perdere. Il problema sostanziale, lo so perché me l'hanno detto, quindi non è che lo so perché sono un profondo conoscitore della cultura geografica nazionale e internazionale, quindi... Io sto dicendo una cosa, io propongo, sono un fervido convinto della proposta Berlusconi, premio Nobel per la pace, per un semplice motivo, è stato un uomo che ha saputo avvicinare e portare in Italia grossi presidenti di nazioni, diciamo imponendo, mi accetti la parola buona, nel senso buono della parola, imponendo delle decisioni di mediazione che differentemente nessun altro è riuscito a fare negli anni e nei decenni precedenti. Quindi, oltre alle azioni di cui tutti quanti sappiamo, c'è questo personaggio che è riuscito a dare praticamente al mondo quel senso di mediazione, di pace e di incontro che nessun altro è riuscito a dare. Quindi, le ripeto, oltre tutto ciò che possiamo sapere, che leggiamo da internet, che da internet, diciamo, è stato riportato a più voci, io sono convinto, convintissimo che un personaggio di questo genere è stato unico, diciamo, fino a prova contraria nessuno può smentire, situazione di questo genere, è stato unico e un unico presidente del Consiglio a saper fare questo. Ecco, io scusi un attimo, oltre alla vicenda della Georgia, della Cecenia, ma per esempio sulla Libia, perché? Beh, guardi, lei sa che negli ultimi 50 anni noi abbiamo avuto una serie di problematiche, attenzione, anche dolorose per gli italiani, dolorosissime per gli italiani. Però il merito di Berlusconi, il merito per il quale lui merita... insomma, può aspirare al premio Nobel per la pace per quello che riguarda la Libia, per esempio, qual è? Ma io non credo che sia per quello che riguardi la Libia. C'è scritto per riguardo la Libia, ha risolto un contenzioso il presidente Berlusconi. Per quanto riguarda invece la pace tra i popoli è un qualcosa di diverso. Per quanto riguarda una mediatore tra presidente russo e presidente americano, io credo che per quello meriti il premio. Ma quindi, pare che non ci possono vedere gli americani per questo fatto qua, che insomma ci sono un po' di problemi per i nostri rapporti con la Russia, dicono. Ma lei è convinto di questo? No, ma non sono convinto. Io sono convinto assolutamente del contrario. Un presidente che riesce a far sedere attorno a un tavolo, in situazioni anche diciamo di tensione, due grossi personaggi di due blocchi opposti, è riuscire a riportare diciamo delle intese concrete che vanno verso quell'idea di pacificazione di anche focolai di guerra nel mondo, io credo che per quello meriti la pace, molto più che per la Libia. Per la Libia è diciamo una soluzione di un contenzioso. Però dovete mettervi d'accordo, perché al comitato sono convinti che lo meriti anche per la Libia. Va bene, senti, io le voglio che lo fare... meriti anche, badi bene. Anche. Ma io sono andato oltre. Senta, ma non c'è un po' in questa iniziativa per il premio Nobel per la pace, che mi pare un po' temeraria, ecco, insomma, così a occhio, perché lei ci conta per davvero, ci punta per davvero, non mi dica che ci punta per davvero, perché sennò non farebbe il politico, no? Beh, guardi, a parte che io di professione faccio tutt'altro che il politico, comunque sono anche un politico, per carità di Dio, non lo rinnego. Però, vede, cioè, lei ogni iniziativa parte dalla base, questa è un'iniziativa che è partita dalla base, non è un'iniziativa sponsorizzata dal partito, non è un'iziativa sponsorizzata da assolutamente il presidente Berlusconi e chissà che. Ogni iniziativa che vuol portare comunque un beneficio a uomini della propria nazione, a esponenti che comunque nel bene o nel male, noi parliamo di una persona da 15 anni dicendo si è pro o contro Berlusconi, quindi comunque il riferimento non nazionale, badi bene, ma internazionale nel mondo, è comunque Silvio Berlusconi. E di fronte a una certezza di questi fatti, una certezza di questo personaggio, l'Italia è conosciuta nel mondo, dovunque noi andiamo. Una volta ci conoscevano per spaghetti e mafia, oggi ci conoscono per Berlusconi. Ah beh, questo non c'è dubbio. Quale argomento più forte di questo per dare il Nobel a Berlusconi? Io le suggerirei una cosa però, Catone, una proposta che lei può fare al comitato. Assumete quest'uomo, le faccio ascoltare una cosa. È un ascoltatore che ci ha chiamato ieri quando parlavamo della vicenda del premio Nobel, si chiama Alessandro della provincia di Livorno. Dovete farlo diventare una sorta di paladino di questa iniziativa, portarlo fino a Stoccolma. Senta, se era una donna, una bella donna, mi sarei dato sicuramente al presidente, hai capito? Senza andare a cercare segni o cose, ma per la possibilità di essere stato a letto con lui. Catone, straordinario, eh? Ma straordinario, io direi patetico comunque. La ringrazio, buona serata. Salve. Prima degli ascoltatori, i titoli del TG2. Duro monito di Obama, Sarkozy e Brown all'Iran dopo la scoperta di un secondo impianto nucleare. Stop alle centrali o sanzioni più dure. Anche l'Italia si associa alla condanna. G20 intesa a Pittsburgh, limiti ai bonus per i banchieri, un patto per il controllo e la crescita sostenibile, mantenere gli aiuti per contrastare la disoccupazione. Mezzo miliardo di euro esportati illegalmente all'estero scovati dalla finanza. Nel mirino del fisco anche il ciclista Rebellin e il pilota di Formula 1 Liuzzi. Monito di Maroni ai magistrati. Chi non applica la norma sull'immigrazione clandestina commette un reato. Casini, D'Alema e Pisano. Sia la cittadinanza dopo 5 anni. A Parigi una grande mostra rende omaggio ad un'attrice dalla sensualità inimitabile. Brigitte Bardot sta per compiere 75 anni, un mito che non tramonta. Bene, c'è stato un comunicato del ministro per lo sviluppo economico Scajola che ha riattizzato le polemiche su Anno Zero. È ora di finirla, è l'ennesima puntata di una campagna mediatica basata sui pruriti, sulla spazzatura, sulla vergogna, sull'infamia, sulle porcherie. Convocherò i vertici della RAI per verificare se trasmissioni come Anno Zero rispettino l'impegno assunto dalla RAI nel contratto di servizio a garantire un'informazione completa e imparziale. Ancora, la televisione non può sostituire i tribunali, soprattutto quando la magistratura non ha rilevato alcun elemento per aprire inchieste sul Presidente del Consiglio. Stiamo attraversando una stagione di veleni che sconcerta i cittadini, queste aggressioni sono la risposta disperata alla politica del fare del governo Berlusconi, eccetera, eccetera. Convocherò i vertici della RAI come ministro dello sviluppo economico. Vedremo. Intanto andiamo a sentire Stefano da Padova per primo. Stefano, buonasera. Buonasera, dottore. Dica. Vorrei dire un paio di osservazioni velocemente. La prima, riguardo così la tensione che si respira all'interno del governo, anche con le dichiarazioni, per esempio, del ministro Brunetta di questi giorni, la mia impressione è che il governo dichiari in questa maniera perché si percepisce la paura che venga bocciato il lodo Alfano e quindi questa azione preventiva, anche piuttosto isterica, mi sembra motivata da questo. Lodo Alfano che va contro un principio essenziale del diritto, cioè la legge è uguale per tutti. Cioè lei ha già anticipato il verdetto della Corte Costituzionale? Ma la mia impressione è questa, che verrà bocciato. Però io vorrei anche dire che spesso si dice che Silvio Berlusconi è stato eletto con la maggioranza dei voti degli italiani, con una buona parte dei voti degli italiani, ma io vorrei anche ricordare che la giustizia italiana è decisa in nome del popolo italiano, quindi lo spettro è un po' più ampio della giustizia rispetto al voto popolare. Che vuol dire? Mi scusi. È su un piano superiore il diritto, viene amministrato per nome di tutti, per cui se il Presidente del Consiglio compie un reato che si chiami Berlusconi, Prodi o chi che sia, è bene che ne paghi le conseguenze in maniera molto semplice. La seconda cosa che volevo toccare era il discorso dello scudo fiscale. A me pare evidente che questo provvedimento sia stato un regalo fatto ai disonesti e quindi colpisce la parte onesta del paese. che però mi fa un po' specie sentire per esempio dichiarazioni di persone come il vicepresidente della Confindustria Bombassei, che ieri ha dichiarato che lo scudo fiscale tutto sommato è una cosa sgradevole però abbastanza utile. Cioè chi pensa, chi la pensa così, Stefano, è un criminale, è un mafioso, un bandito, uno che si fa gli affari propri e non pensa bene del paese. Questa è la sua tesi. Buttando là una provocazione, si potrebbe dire che anche spacciare cocaina è utile per raggranellare del denaro se uno ha bisogno, organizzare la prostituzione. Cioè non si può continuare a ragionare in questa maniera. Vi ringrazio. Sì, grazie a lei Stefano. Quella che l'ultima cosa che ha detto è una provocazione, ma è anche una stupidaggine, mi permetta. Sono due cose che non c'entrano nulla, assolutamente nulla. Non si può criminalizzare tu curro un provvedimento, bisogna vederne naturalmente le ripercussioni, i dettagli. Poi uno può criticare, come dire, sin dall'inizio può criticare come idea quella di fare dei condoni, ma e può criticare naturalmente anche il modo in cui un condono viene fatto. Però le ricordo che i condoni fiscali, sto parlando dello scudo fiscale, sono probabilmente adottati, certo in maniera diversa, anche in altri paesi. Arturo dalla provincia di Napoli, buonasera. Buonasera. Dica. Mi scusi, sono emozionato, è la prima volta. Non si emozioni, sì, parli tranquillamente. Ero a favore del... volevo sostenere la candidatura al Nobel del nostro presidente. Addirittura, seriamente o così, ironicamente? No, perché uno per il prestigio internazionale, con il governo Prodi siamo andati solo a capo dell'Unifil e è passata la moratoria e buona della pena di morte in America. Il nostro presidente ha sdoganato la mercificazione del corpo, tanto che ha detto che ci sono signorine disponibili in venditori di successo, per i ricchi, per i poveri in galera. Non ho capito niente, Arturo, mi scusi, non capisco nulla, però mi si spieghi meglio. Allora, niente, praticamente ha sdoganato la mercificazione del corpo, ha detto ci sono tante signorine disponibili e tanti imprenditori di successo. Vabbè. In più ha messo sullo stesso livello giudici e chi viene indagato. E ancora ha creato un odio sociale, che io mi sono beccato lo straniero di merda a Milano perché magari ero con degli stranieri. Rischiamo di trovarci con la Palestina in casa per questa politica contro gli stranieri. Cioè veramente. Vabbè, Arturo, se dobbiamo continuare, per carità, qui c'è posto per tutto, ma non per follie assortite. Giorgio da Roma, buonasera. Pronto, buonasera. Dica. Pronto? Sentivo. Volevo parlare per quanto riguarda la libertà di stampa. E certamente non è che sono in grado, diciamo, di verificarla tu per tutto, perché non ho né la fortuna né il tempo da poter leggere tutti i giornali. Però una cosa, diciamo, che volevo esprimere è che siccome, come, diciamo così, come lettore del centro-sinistra, chiaramente non avendo più una rappresentanza a livello, diciamo, di pensiero, di idee, è chiaro che poi secondo me ognuno cerca, diventa un po' paladino di se stesso, nel senso un po', mi fa pensare un po' un libro dal titolo Urla sotto le macerie, nel senso che non trovando questa diciamo... Giorgio, sì. Andiamo al sodo. Dicevo che secondo me molte persone come me in qualche modo non vedendosi rappresentati sotto certi aspetti diciamo, ecco perché secondo me esce fuori questo problema della libertà stampa, cioè nel senso che No, non credo proprio, Giorgio, mi scusi, ma non ci siamo. Marcello dalla provincia di Milano, non ci buonasera, perdiamo. Dica. Buonasera Cruciani. Innanzitutto, ascolti, la volevo ringraziare per il sipario radiofonico, è un cult radio, il suo intervento con Catone, Tbilisi e violini in sottofondo. Grazie. Veramente, grazie. La ringrazio perché è stato un intervento inaspettato e la ringrazio. Io dovevo fare un intervento sullo scudo fiscale. Sì, però volevo fare un piccolo preambolo, se mi è consentito. Sì, no, non c'è troppo tempo perché c'è il traffico, comunque vada pure. Niente, volevo dire, lei mandando in onda le canzoni su Silvio Berlusconi, diciamo, ci ha tolto la possibilità di vederlo vincitore a Sanremo, innanzitutto. Mm, e poi l'altro aspetto, spero vivamente che non finiscano soldi degli italiani nel progetto della candidatura per il Nobel. Ecco, solo non ci sarà questo, non ci sarà questo pericolo. Marcello, la ringrazio. Eccoci qui, gentili ascoltatori, per l'ultima parte della Zanzara. 800 24 00 24, dove andiamo? Andiamo in provincia di Chieti. Camillo, buonasera. Oh, buonasera dottor Cruciani. Volevo, lei ieri sera affermava che Di Pietro era stato 14 volte a Porta, ma è un servizio pubblico, e quindi non vedo l'attinenza, non significa che siccome uno va in una trasmissione non possa criticare il conduttore, come se io intervengo nella sua trasmissione e non posso manifestare il mio disappunto su qualcosa che non condivido con lei. No, certo, Camillo, mi scusi, certamente si può criticare il conduttore di una trasmissione pur essendo ospite di quella trasmissione. Qui non è in causa però una critica a Vespa. Di Pietro ha usato parole molto dure. Vespa sta al giornalismo come la sedia elettrica alla vita. Per cui lei capisce bene che una critica che va al di là di una considerazione sul modo di fare di giornalismo di Vespa, e dunque credo che Vespa abbia fatto bene a chiedere, a pretendere le scuse da Di Pietro. Poi finirà a taraluce e vino, sicuramente, come ogni polemica che riguarda la RAI, no? Vabbè, l'altro argomento è che volevo un suo parere, era quello dello scudo fiscale, ma mi dica sinceramente, le sembra possibile che, se si parla di detassare la tredicesima in un periodo così particolare per le famiglie, si grida allo scandalo, dice come facciamo, non ci sono entrate, e per lo scudo fiscale si fanno rientrare dei capitali solo con il 5%. Questa forma di governo e questa forma di premiare sempre coloro che hanno sbagliato mi induce veramente, questa è un'istigazione a delinquere, mi istiga ad evadere, mi istiga che se posso anche io devo fare come questa gente qua, vista che viene premiata. Tutto qua. La ringrazio. Camillo. Antonio da Torino, buonasera. Buonasera. Dica. Ma io volevo fare un riferimento a Brunetta, al suo golpe, e un riferimento alla Gelmini, che secondo me può essere collegato rispetto alla politicizzazione delle scuole. Cioè, dei bambini che vanno alla scuola media statale, e la prima riunione di quest'anno gli insegnanti, oltre a non aver fatto il minuto di silenzio nel periodo in cui c'era il lutto nazionale, hanno esplicitamente, in modo diretto, detto che loro fanno politica a scuola, e in questa modalità fanno un'attività che non è scolastica, che cercano in qualche modo di indurre anche i genitori a prendere in consegna le loro problemi, eventualmente portarli in piazza. Che significa che fanno politica? Mi scusi, Antonio. Non in contrario alle loro. No, mi scusi, che significa che. Mi scusi, che significa che fanno politica gli insegnanti? In che modo? Nel modo più esplicito possibile. Loro hanno parlato male della Gelmini, ci hanno detto che sono completamente contrari, che loro si opporranno in tutti i modi, che in alcuni casi non l'hanno detto in modo chiaro, ma ce l'hanno fatto capire, faranno lo sciopero bianco. Vabbè, niente di nuovo sotto il sole, in realtà, sono cose che capitano però spesso. Quando ci sono dei bambini di prima media, che dalle mie parti, abito in Val di Susa, devono essere tutti in OTAV, perché se sei TAV o se la pensi diverso da loro, in qualche modo ti fanno trovare lungo. Noi ci troviamo in una situazione che la pensiamo diversamente e facciamo fatica a vivere in una... No, questo lo immagino, sul golpe di Brunetta che mi voleva dire? No, che probabilmente Brunetta faceva riferimento anche a queste situazioni, dove si stanno mobilitando tutta una serie di associazioni, come quella anche dei professori o in altri ambiti, che possono anche essere in altre istituzioni. Sì, diciamo che non è il caso di usare la parola golpe, perché i professori che cercano di boicottare una riforma, giusto o sbagliata che sia, ripeto, non è una novità. La ringrazio, purtroppo non è una novità. Carlo da Napoli, buonasera. Buonasera dottor Cruciani. Dica. Complimenti per la trasmissione. Volevo intervenire su Santoro, in effetti, su Anno Zero. Sì, che c'è di altro da dire? Che c'è di altro? Che io ieri ho sentito la vostra trasmissione quando si parlava di Anno Zero e tutto il resto, ho sentito un attimino tutto la caciara che si faceva su Cruciani che doveva intervenire o non intervenire ad anno zero. Travaglio, sì. Travaglio, mi scusi. Travaglio che doveva intervenire o non intervenire ad anno zero, con i compensi o meno. Che Santoro diceva, se non c'è Travaglio non ci può essere anno zero. Sì, allora? Santoro è un giornalista, viene pagato dalla RAI, che mi dice che non c'è Travaglio, mi sembra assurdo, perché vuol dire che allora lui non serve a niente come conduttore e come giornalista. Poi, seguendo la trasmissione, ho visto che molto politicizzata solamente dalla parte di sinistra. Ma anche qui, Carlo, mi sembra che siamo all'ovvio, a prescindere dalla sinistra o no, che sia una trasmissione che spesso dà delle randellate, che se la prende col Presidente del Consiglio, soprattutto nella puntata in cui si parla della libertà di stampa. Insomma, nulla di nuovo sotto il sole da questo punto di vista, almeno per quello che abbiamo visto ieri sera. Emanuele da Roma, buonasera. Buonasera. Dica. Dunque, io volevo commentare la proposta del Comitato per il Premio Nobel per la pace per Berlusconi. E volevo commentare in qualità di giovane 23enne. Perché in questi giorni ho sentito la sua radio e sono ammattato dalle risate a sentire tutti i fedeli, i seguaci di Berlusconi, soprattutto quello di ieri sera che era strepitoso, ha messo pure i violini di sottofondo, diceva che se fosse stato donna si sarebbe donato al Premier, che ogni giorno si sveglia il Premier gli dà coraggio. Ecco, poi anche i contenuti della proposta sono scandalosi, come scandalosi sono contestabili. Beh, certo, sono di parte. C'è un comitato che vuole dare il premio Nobel a Berlusconi, cosa si aspetta, che sia contro Berlusconi? È evidente che è di parte, cioè. Però comunque sono veramente divertenti, però poi alla fine a un ragazzo lasciano il disgusto e la voglia di protestare. Perché ma protestare per che cosa? Che c'è da protestare? Ognuno può fare il comitato che vuole fare, che ovviamente di fare. È una cosa che non ho mai sentito, non so, lei l'aveva mai sentito nella storia? No, ma effettivamente c'è un livello di adulazione, di culto della personalità, in questo caso devo dire pare non alimentata da Berlusconi, ma chissà. La ringrazio, siamo molto veloci in conclusione perché mancano pochi istanti, allora andiamo a Roma. Fabio, buonasera, poi Nicola da Verona. Fabio, velocemente. Buonasera. No, volevo intervenire sul tema dello scudo fiscale. Sì. Per replicare tanti che si sentono indignati in quanto lo considerano, diciamo, semplicemente la stregua di un condono, di una scatoia. Sì, l'indignazione secondo me va anche motivata, perché dire è una vergogna, perché i ricchi la fanno franca, è ridicolo, insomma, oppure è un colpo di spugna, cioè bisogna anche motivarla concretamente l'indignazione, no? Infatti io quello che volevo sottolineare, cioè è vero che consente a chi ha occultato denari di legittimare le proprie ricchezze versando un importo esiguo, no? Che poi insomma è quello del 5%. Di contro va anche detto comunque che allo Stato attuale le autorità di controllo, che siano l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, per difficoltà burocratiche, inadeguatezza degli uffici, gli alti costi delle procedure, cioè comunque quelle ricchezze, cioè quelle stesse ricchezze che ora potrebbero diventare con lo scudo fiscale, probabilmente non avrebbero colpito, o quantomeno non avrebbero colpito una parte molto. Ma infatti questa qua questo è un ragionamento fondato, cioè quei soldi probabilmente rimarrebbero dove sono. La ringrazio. Nicola da Verona, per concludere velocemente. Nicola, prego. Due cose velocissime. Uno sul giornalismo di Santoro. Premetto che io lo guardo Santoro, però secondo me è troppo fazioso e dovrebbe dire le cose come vanno, come vanno, sia belle che brutte. Cioè praticamente come quando è successo il terremoto. Però Nicola, usciamo un po' dalla banalità di Santoro fazioso, altrimenti veramente facciamo un discorso non ha senso. Fa vedere solo le cose brutte. Non so se la realtà. C'è un giornalismo troppo catastrofista. Poi la seconda cosa, Nicola, che vuole dire? Cosa sul Report, sì. Che premetto che è un programma che a me piace, però è che se prendono una denuncia se la pagano loro, non deve essere la pubblica. Ma anche qui mi scusi Nicola, e la ringrazio e con questo concludo, se la RAI pensa che Report sia un report, sia una trasmissione di punta, una trasmissione importante, credo che la questi sono dettagli tecnici, la copertura legale delle inchieste dovrebbe essere assicurata, punto e basta. Ci sentiamo lunedì 18:30, ciao. La Zanzara.